La vita è un'altra cosa, sì. Un'altra cosa sì, chiedete la baffone alla sua sposa, chiedetela al fondo di un bicchiere. Hesitation. la vita è un'altra cosa. Seduto ad aspettare, seduto in mezzo al mare, ad aspettare chi? La vita è un'altra cosa, la vita è un'altra cosa, se la vita ti sa fare, ti sa fare.